Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se mi si chiede quest'estate si faranno le vacanze, io rispondo sì, quest'estate si faranno le vacanze. Saranno diverse, dovremo osservare le misure che ci sono prescritte per tutte le attività, il distanziamento, in qualche caso le mascherine, la sanificazione, tutte le cose che conosciamo ormai molto bene, ma saranno vacanze diverse, ma le vacanze si potranno fare. Parola, care ascoltatrici e cari ascoltatori, del ministro dei beni culturali e del turismo Franceschini. Quindi le vacanze si potranno fare quest'estate, così speriamo tutti, ma saranno diverse inevitabilmente. Però di cosa ci occuperemo in questa puntata? Delle previsioni purtroppo molto negative della Commissione europea sul prodotto interno lordo italiano, quindi sulla crisi economica. L'Italia dovrebbe essere, secondo queste previsioni, la più colpita in Europa, più di noi soltanto la Grecia. Poi parleremo naturalmente anche della politica interna, con questo scontro che c'è all'interno della maggioranza e anche con l'opposizione sulla questione della regolarizzazione dei braccianti, dei migranti che lavorano nei campi a raccogliere italiani, a raccogliere la frutta e la verdura. Vedremo che c'è lo scontro con l'opposizione su questo tema, naturalmente, ma anche proprio all'interno della maggioranza tra PD e Movimento 5 Stelle e anche all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle. Poi ci sarà anche modo di collegarci con la Gran Bretagna, perché appunto, come si diceva già ieri, i numeri sono molto pesanti per quanto riguarda contagi e vittime, tanto che ha superato per vittime l'Italia, la Gran Bretagna, e sarebbe seconda al mondo addirittura dopo gli Stati Uniti. E poi c'è anche uno scandalo molto particolare che riguarda la Gran Bretagna, cioè lo scienziato numero uno, il consulente, una specie di genio del governo di Boris Johnson, quello che l'ha convinto poi a chiudere quando Boris Johnson invece voleva raggiungere l'immunità di gregge, è stato pizzicato da un giornale mentre durante il lockdown andava dall'amante. Poi molte altre cose, naturalmente, non vi posso riassumere tutto adesso, tra poco c'è la sintesi della giornata e poi gli approfondimenti con gli ospiti. 349-238-6666, come sempre il numero per i vostri sms e whatsapp da inviare, appunto, al 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Potete seguire il Twitter della diretta in Effetto Notte, oppure il Twitter durante la giornata è Roby con la Y, Linetta Bassa, Giordano. I dati sul coronavirus in Italia: torna a salire la curva dei contagi, soprattutto in Lombardia, e il numero di vittime, 369 nelle ultime 24 ore, oltre 8.000 i guariti in un giorno solo. Conte al vertice con le imprese, dice: valutiamo se anticipare la riapertura dei negozi, intanto in arrivo un bonus fino a 500 euro per le biciclette e super bonus per l'ecoedilizia. Le stime nere della Commissione europea: in Italia ci sarà una profonda recessione, il PIL giù del 9,5%. Lo scontro sulle regolarizzazioni dei braccianti: la ministra dell'agricoltura Bellanova minaccia le dimissioni. Le polemiche sui tanti boss scarcerati: il ministro Bonafede annuncia un decreto per riesaminarle. Stati Uniti, marcia indietro del segretario di Stato Mike Pompeo: prove ma non certezze, dice, sul virus nato in laboratorio di Wuhan. Intanto è pesante la situazione in Gran Bretagna, tra numeri da record e uno scandalo boccaccesco. Sport, calcio: da metà maggio riparte in Germania la Bundesliga. Per il ministro Spadafora è impossibile dare oggi una data certa per la ripresa del campionato italiano. Partiamo quindi, come sempre, dai dati forniti dalla Protezione Civile sull'epidemia di coronavirus in Italia. Siamo al terzo giorno della fase 2, con la vita nelle città che sta man mano riprendendo, ma i dati arrivati oggi invitano ad essere molto cauti. Secondo gli ultimi dati della Protezione Civile, in Italia le persone guarite dal coronavirus salgono a quota 93.245, con un incremento record di 8.000 nelle ultime 24 ore, ma si registrano anche altri 369 decessi, 222 dei quali nella sola Lombardia, mentre il totale delle persone attualmente positive scende a 91.528. Se l'andamento positivo della curva epidemiologica proseguirà anche nei prossimi giorni, Il governo fa sapere che in alcune regioni parrucchieri, bar e ristoranti potrebbero riaprire già il 18 maggio. Siamo in condizioni di studiare differenziazioni geografiche, spiega il premier Conte, il quale assicura che da parte dell'esecutivo non c'è alcuna volontà di protrarre il lockdown residuo. Il ministro per gli affari regionali Boccia sottolinea comunque che le riaperture dovranno essere subordinate al rispetto delle misure di sicurezza che saranno diffuse la prossima settimana dall'INAIL. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quindi, come avete sentito, bar e ristoranti potrebbero riaprire prima della data prevista del 1 giugno. Intanto oggi è stata comminata una multa da 400 euro per alcuni ristoratori che protestavano, ben distanziati tra loro in realtà, all'Arco della Pace a Milano. Protestavano proprio per la mancata riapertura e per la crisi che morde. Sentiamo la rabbia di uno di loro. Questo è un problema di sicurezza, voi vi rifate alla sicurezza, ma quale sicurezza? L'unica sicurezza che abbiamo è che non abbiamo i soldi per far mangiare i nostri figli, quella è l'unica cosa sicura. E a proposito di ripartenza e crisi economica, secondo le cupe stime della Commissione europea, pandemia e lockdown spingeranno l'economia italiana in una profonda recessione con un rimbalzo tecnico nella seconda metà del 2020. Stime che vedono il PIL, il prodotto interno lordo, la ricchezza italiana, contrarsi del 9,5% quest'anno, col nostro paese secondo solo alla Grecia quanto a valori peggiori, ma rimbalzare poi al 6,5% l'anno prossimo. Quest'anno il coronavirus spingerà il deficit italiano all'11%, mentre il debito raggiungerà il 159%. E ancora, scrive la Commissione europea, all'interno dell'Unione europea la pandemia potrebbe lasciare cicatrici permanenti. Tra poco poi ci sarà modo di tornare a parlarne in modo più approfondito. Il governo italiano è nel frattempo al lavoro per sostenere famiglie e aziende. Tra scontri nella maggioranza e confronti con le parti sociali si cerca l'intesa sul decreto da 55 miliardi di euro che dovrebbe approdare nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri. Confindustria e ANCE intanto esprimono contrarietà alla proposta di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario per percorsi di formazione. No a prestiti, servono indennizi e poi la richiesta degli industriali per le aziende travolte dalla crisi del coronavirus, mentre il presidente di Confcommercio Sangalli lamenta come dopo oltre 2 mesi di lockdown totale la stragrande maggioranza delle imprese non abbia ancora ricevuto gli aiuti promessi. Continua anche la discussione sul reddito di emergenza da 400 a 800 euro, mentre in arrivo nel decreto il rinnovo della cassa integrazione, la proroga del bonus per gli autonomi, il congedo straordinario per genitori, il bonus babysitter e pronto l'aiuto per colf e badanti, insieme a un super bonus per l'edilizia al 110%. Spazio anche agli incentivi fino a 500 euro per l'acquisto di bici e monopattini e servizi di sharing. 1 miliardo alla cultura e misure specifiche per il turismo, annuncia il ministro dei beni culturali Franceschini. E in arrivo per bar e ristoranti l'esenzione per 6 mesi dalla tassa di occupazione del suolo pubblico. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Per quanto riguarda la tenuta del governo, si sta alzando il tono dello scontro tra 5 Stelle e Italia Viva sull'emersione dei lavoratori in nero che la ministra dell'Agricoltura Bellanova di Italia Viva vorrebbe nel decreto maggio. Uno scontro con tanto di minaccia di dimissioni sulle regolarizzazioni dei migranti, il governo si spacca. Vito Crimi risponde alla proposta della ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, nessuna sanatoria, mentre via libera chi percepisce il reddito di cittadinanza. Così il reggente 5 Stelle a 24 mattino. Se come ho potuto leggere c'è anche una parte di testo di intenzioni di fare una regolarizzazione, una sanatoria, noi non ci stiamo. Massima disponibilità all'emersione del lavoro nero, ma non accetto che vengano dati dei permessi di soggiorno temporaneo. Ma Bellanova insiste, l'esponente di Italia Viva minaccia anche le dimissioni. Un governo non può non risolvere questa contraddizione. Se non risolve questa contraddizione è evidente che persone come me non sono utili nella loro funzione. Nei 5 Stelle non tutti la pensano come Crimi, i parlamentari Brescia e Mantero sono favorevoli alla sanatoria. Per il ministro del Sud Giuseppe Provenzano non è una questione di bandierine, per quella dell'interno Luciana Lamorgese sull'emersione c'è una condivisione di fondo. Mentre arriva il monito di Papa Francesco, i braccianti sono sfruttati in campagna, bisogna dare dignità al lavoro. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E collegate all'emergenza coronavirus ci sono le polemiche sulle scarcerazioni. In aula oggi alla Camera le parole del Ministro della Giustizia Bonafede dopo i retroscena rivelati dal magistrato Nino Di Matteo sulla sua mancata nomina alla guida dell'amministrazione penitenziaria. Poi nel corso di questa puntata cercheremo di chiarire un po' questa vicenda articolata. Quindi fase 2, dicevamo che stenta a decollare, d'aiuto sarebbero test e tamponi su cui però le regioni procedono in ordine sparso. Difficile inoltre trovare in farmacia le mascherine a 50 centesimi. Mascherine a prezzo calmierato introvabili da nord a sud, con Federdistribuzione che annuncia l'esaurimento delle scorte, test sierologici a rallenti e regioni in ordine sparso. Test e tamponi devono andare insieme, ha detto il viceministro alla salute Pierpaolo Sileri, e per aspettare i tamponi la campagna del ministero di test sierologici su 150.000 cittadini partirà dalla prossima settimana. In Toscana intanto i medici di famiglia li potranno prescrivere ai loro pazienti. Da lunedì parte il Lazio con 300.000 test e sul fronte delle terapie ora è il momento del plasma dei guariti, oggetto di studio in diversi paesi del mondo, Italia compresa. Questo tipo di trattamento, avverte il Ministero, non è da considerarsi al momento ancora consolidato, ma il Veneto già si prepara a costituire una banca del plasma dei guariti. Il governatore Luca Zaia. Oggi chiediamo agli ammalati che sono guariti in maniera non obbligatoria, ma saranno contattati, di mettersi a disposizione di donarci per un mezz'ora il braccio e ci preleviamo la sacca di sangue, perché noi stiamo costituendo la più grande banca del sangue e per avere il plasma degli ammalati oggi guariti del coronavirus. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso all'estero, negli Stati Uniti, c'è stata una parziale retromarcia del segretario di Stato americano Mike Pompeo sulle accuse alla Cina. We don't have certainty, and there is significant evidence that this came from the laboratory. Gli Stati Uniti hanno in mano prove significative che il coronavirus venga da un laboratorio di Wuhan, ma non hanno ancora certezze. Lo ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo. Washington torna ad accusare la Cina opaca sul virus e chiede un'indagine all'OMS. Intanto la Gran Bretagna è diventata nei conteggi il primo paese europeo in cifra assoluta per le vittime, ma il ministro della Sanità Matt Hancock afferma che Spagna e Italia non includono nei loro dati alcuni decessi al di fuori degli ospedali. E mentre in Spagna il numero delle vittime cresce, ma a ritmo più basso, la preoccupazione è ora per il turismo, con un crollo stimato fino adesso del 64,3%. In Francia, mentre si avvicina la data della fase 2, l'11 maggio, il presidente Emmanuel Macron comincia a pensare alla cultura, con un grande programma di commesse pubbliche per lo spettacolo e un fondo di indennizzo temporaneo a favore dei set cancellati. Infine la Germania, pronta per la nuova fase. Limitazioni ai contatti prorogate fino al 5 giugno, ma negozi riaperti con misure di igiene e distanziamento. IVA abbassata per un anno su attività di ristorazione. La primissima fase della pandemia è alle spalle, ha detto Angela Merkel annunciando le nuove misure. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi l'allerta dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice il rischio di tornare in lockdown resta molto reale se i paesi non gestiscono le transizioni con estrema attenzione e con approccio alle varie fasi. Torniamo in Italia con la scuola. La ministra dell'istruzione Azzolina ha detto che la maturità sarà fatta in presenza e durerà un'ora. Anche quest'anno l'esame di Stato sarà serio. L'esame di Stato consisterà in una prova diversa rispetto agli anni precedenti. A brevissimo sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 22/2020, l'ordinanza relativa agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per quest'anno scolastico, la cui sessione avrà inizio il 17 giugno, con lo svolgimento di colloqui della durata massima di un'ora in presenza, senza che comunque sia messa a repentaglio la massima sicurezza per tutte le persone coinvolte. A tal fine stiamo lavorando a specifici protocolli insieme alle forze sociali. E siamo allo sport per chiudere. La cancelliera tedesca Merkel ha confermato il via libera al campionato di calcio, mentre sul nostro campionato ancora nessuna decisione. C'è l'auspicio che il campionato possa ricominciare, ma al momento è impossibile indicare una data. Il ministro Spadafora torna a parlare del futuro della Serie A in un question time alla Camera, in cui gli viene chiesto cosa sta facendo il governo per mettere l'industria del pallone in condizione di riaprire. È successo oggi alle 15, proprio mentre dalla Germania arrivava il via libera di Angela Merkel alla ripresa della Bundesliga, che tornerà in campo nella seconda metà di maggio con data decisa dai dirigenti della Lega. Un passo che potrà condizionare anche gli altri campionati top d'Europa e dunque anche la Serie A. Il ministro però è tornato sulle pressioni per indurlo a dare già semaforo verde. L'idea di definire con urgenza, ora e subito, la data della ripresa dei campionati di calcio contrasta con l'esigenza di definire i passi sulla base dell'andamento dei dati. Ricordo che in Europa in questo momento le uniche date certe sono quelle dei paesi che hanno deciso di bloccare i campionati. Domani pomeriggio l'incontro tra la Federcalcio e il Comitato Tecnico Scientifico, nel quale si dovranno validare le linee guida per la ripresa, anche questa auspicata secondo Spadafora, degli allenamenti di gruppo dal 18 maggio. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto, sempre per il calcio, arriva una buona notizia. Con le braccia aperte in segno di vittoria, la foto che ha pubblicato sui social Paolo Dybala: la mia faccia dice tutto, finalmente sono guarito dal Covid-19, ha scritto il numero 10 della Juventus. Bene, prima di lasciarci, brevissima pausa, brevissimi aggiornamenti. Questo ascoltatore dice: buonasera, ma due paroline sul comando americano beccato in Venezuela. No, ma il lockdown non vale per i comando. Sì, non ho idea se valga o no per i comando, credo di no. Comunque qui c'è una polemica, ne ha parlato anche lungamente Paolo Musumeci nel suo Nessun luogo è lontano. Non è che in ogni trasmissione riusciamo a parlare di tutto quanto, anche perché dovrei avere circa una settantina di ore a disposizione. Però vedo notizia di poco fa che il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato oggi l'arresto di altri 4 che lui definisce terroristi. Qualcuno dice che non era un comando, qualcuno invece dice che lo era, che erano terroristi, che hanno partecipato alla cosiddetta operazione Gedeone, che secondo Caracas si proponeva durante lo scorso fine settimana di realizzare un colpo di Stato in Venezuela e portare Maduro negli Stati Uniti. Lui ha detto si è trattato di una cattura di questi uomini avvenuta tra la notte scorsa e mezzogiorno locale grazie all'operazione Negro Primero, schiacciamento del nemico, e tutti questi nomi, insomma, così piuttosto enfatici. Con questi nuovi arresti sono salite a 17 le persone catturate e accusate di aver partecipato a questa incursione via mare, fra cui due cittadini statunitensi che, ha concluso Maduro, sono rei confessi e sono trattati con rispetto, dice, mentre sono in mano alla giustizia. Ecco, questo è l'ultimo aggiornamento, ci sentiamo a momenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti, come sapete, sempre ricchissimi di notizie ed aggiornamenti in diretta. Poco fa un ascoltatore chiedeva della situazione in Venezuela, così ho dato questo breve aggiornamento e poi la sintesi della giornata con tutte le notizie più importanti da sapere dall'Italia e dall'estero. E adesso invece cominciamo ad addentrarci in alcuni argomenti, in particolare con gli ospiti. Naturalmente, appena partita la fase 2, siamo al terzo giorno, dicevamo, con le città che di nuovo cominciano a ripopolarsi, le strade, sia delle persone che del traffico automobilistico, dei mezzi vari, eccetera, con la gioia per le piccole e grandi libertà dei cittadini e delle cittadine comuni, no? Anche solo il fatto di poter camminare liberamente, vabbè, sempre con la mascherina dove è obbligatorio, perché altrimenti, rispetto al decreto del Presidente del Consiglio, bisognerebbe usarla solo nei luoghi chiusi, dove ci sono, o nel supermercato, in una farmacia, in un negozio, insomma, luoghi pubblici aperti appunto al pubblico, mentre alcune regioni invece la prevedono in ogni caso. E poi, quindi, queste aperture con, dicevo, piccole e grandi gioie, ma anche con le necessarie cautele, con gli inevitabili rischi e timori. E intanto, a proposito della grave crisi economica scaturita proprio da questa pandemia, arrivano pessime notizie dalla Commissione europea che riguardano la nostra economia, l'economia italiana, quella di tutta l'Europa, ma in particolare quella dell'Italia, per la quale si parla di una profonda recessione. Vedono le stime della Commissione europea il PIL italiano contrarsi del 9,5% quest'anno, e dicono tra l'altro che la pandemia potrebbe lasciare delle cicatrici permanenti in Europa, in particolare in Italia. Allora, coinvolgo il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto. Buonasera a tutti. Buonasera a te. E quello che ti chiedo è: perché l'Italia in tutto questo paga il prezzo più alto in Europa? Perché già prima non andava tanto bene, già prima aveva un debito considerevole, oppure perché è stata anche colpita più duramente dalla pandemia? Siamo state per diverso tempo il secondo paese al mondo, e perché abbiamo chiuso prima? Quali sono le ragioni in particolare, secondo te, Alberto? Beh, sicuramente siamo stati colpiti prima e più di altri, abbiamo tenuto il periodo di lockdown di più di altri. Venivamo da una situazione in cui il PIL aveva chiuso l'anno praticamente a zero, non avevamo ancora recuperato il prodotto interno lordo che avevamo perso per la crisi del 2008, ne mancavano ancora alcuni punti, adesso non vorrei sbagliare, mi sembra intorno al 3%, e mentre gli altri erano già oltre le soglie del prodotto interno lordo pre-crisi. Abbiamo una struttura dell'economia di cui si parla sempre, fatta da piccole imprese che sono molto più vulnerabili in situazioni del genere, anche se poi in altre invece mantengono la capacità di resilienza e la capacità poi di reagire, di essere più flessibili nei contesti dei mercati internazionali. Però in questa fase naturalmente il colpo arriva di più e soprattutto arriva a un paese che ha un debito mostro ed è pesantemente esposto sul versante appunto del debito pubblico. La qualcosa crea una sensibilità molto evidente sul problema dello spread, una delicatezza nei conti pubblici, una vulnerabilità alla speculazione, cose di cui parliamo spesso e che ormai ahimè fanno parte del nostro lessico comune. Quello che, se posso dire, che colpisce molto nell'analisi che ha fatto oggi l'Unione Europea sugli andamenti della pandemia e della recessione che si porta appresso, è che appunto, come dicevi tu, si rischiano di avere delle cicatrici permanenti, e soprattutto i tecnici della Commissione Europea hanno lanciato, poi per voce del commissario Gentiloni, peraltro un italiano, hanno lanciato il grande allarme sul rischio che possa essere in pericolo addirittura l'idea del mercato unico, perché possono essere talmente marcate le divergenze delle performance nel giro dei prossimi due anni dei paesi che compongono l'Eurozona, che gli squilibri all'interno degli andamenti delle economie possono creare proprio degli allontanamenti proprio dall'idea del mercato unico, dall'idea dell'Europa solidale, dell'Europa unica che agisce come un unico continente, come un unico mercato. Questo sarebbe davvero una deriva molto pericolosa. E non a cosa caso porterebbe, Alberto, il fatto di queste differenziazioni sempre più profonde, queste differenze tra le economie e lo stato di salute dei vari paesi dell'Europa? Beh, questo porterebbe naturalmente a una polarizzazione, un aumento delle diseguaglianze, delle strutture dell'economia e delle performance economiche tra i vari paesi, dando materia probabilmente alle istanze alle istanze sovraniste che preferiscono gli egoismi delle piccole patrie a situazioni in cui sia necessario esercitare misure di solidarietà verso i paesi eventualmente più colpiti. E naturalmente, se queste divergenze fossero più marcate, l'Europa dovrebbe dare segnali di ben più consistenti azioni di solidarietà verso i paesi che restano indietro. La qualcosa naturalmente crea un problema politico per i paesi che in questo momento hanno performance migliori. Segnalo che il migliore in questo momento è la Polonia, paese che veniva naturalmente da situazioni di povertà piuttosto marcata, che hanno ben utilizzato gli aiuti che l'Europa ha saputo fornirgli e che adesso però fa parte del gruppo di Visegrad e ha al suo interno posizioni direi quasi estremiste sull'idea appunto di una svolta sovranista. È un abbandono dall'idea dell'Europa così come l'abbiamo conosciuta nell'idea dei fondatori. Proprio però mi sembra di poter dire la Polonia, come altri paesi, che ha avuto dei belli aiuti dall'Unione Europea, dall'Europa, o no? E adesso invece assolutamente, come tentavo di dire, la Polonia è uno dei paesi che più di altri ha saputo utilizzare la solidarietà europea al meglio, ha potuto godere di anni e anni di quindi cospiti, prende e fugge adesso, prende e vorrebbe fuggire, insomma. Esattamente, no. Questo è il punto. Alberto, invece concentrandoci, siccome abbiamo parlato tante volte con te qui a Effetto Notte in previsione della fase 2 prima che avvenisse, no? E così cercando di capire come poteva essere gestita, che cosa era necessario per organizzarla al meglio, adesso Conte oggi ha detto che valuterà se anticipare il via libera ai negozi prima del 18 maggio, del 1 giugno, insomma di alcuni esercizi commerciali, di alcune attività. E poi ieri c'è stato l'incontro con i sindacati e oggi con Confindustria, con le associazioni degli imprenditori, c'era stata questa proposta da parte dei sindacati di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, ma mi sembrava già un po' utopico, no, che potesse essere accettata questa cosa. Ma sinceramente, per la verità, poi non erano neanche tanto i sindacati, era un'idea della ministra Catalfo, della ministra del lavoro, che aveva proposto di ridurre una quota di orario e trasformarla in formazione pagata naturalmente dallo Stato. Non sembra particolarmente razionale in questo momento in cui la produttività la devi recuperare quando fai girare gli impianti più lentamente, hai bisogno di turni più lunghi. Per esempio pensiamo a un esercizio commerciale che riapra, naturalmente potrà riaprire magari a un terzo del suo potenziale, penso a un ristorante, a un bar, e quindi abbatterà enormemente i margini del guadagno dell'attività, e l'unico modo che ha per recuperarli è di tenere più lungo l'orario di apertura dell'esercizio in modo da compensare il minor numero di tavoli disponibili con una possibilità di farli ruotare di più. Ma questo naturalmente significa più orario di lavoro, non meno, o meglio, magari orario di lavoro normale, ma magari su più turni. Ecco, forse è di quello che bisogna parlare, non in un modo così sloganistico, una riduzione d'orario in cambio di formazione pagata, che non si capisce bene cosa significa. Alberto, invece, di più in queste dinamiche. Presidente della Regione Fontana, fino a poco fa, ho visto varie dichiarazioni, parlava e ha scritto comunque una lettera al Presidente del Consiglio Conte, chiedendo proprio per una città come Milano, in particolare per la Lombardia, che abbiamo detto tante volte, il cuore pulsante economico, industriale dell'Italia che deve riprendere, però ha ribadito Fontana la necessità di rimodulare gli orari lavorativi, soprattutto in vista del 18 maggio, no? Quando riprenderanno altre attività, altri lavoratori, eccetera, e poi di insistere molto con lo smart working. So che molte imprese, molte aziende non sono particolarmente favorevoli, c'è la mentalità, no? Di vedere il lavoratore lì in presenza, di vederlo in quelle ore, che cosa sta facendo. Però mi pare che per esempio per la pubblica amministrazione stia andando abbastanza bene, e poi forse per evitare che tutti si riversino tutti insieme nelle città, nelle strade, nei luoghi di lavoro, lo smart working potrebbe effettivamente essere almeno per un po' ancora una buona soluzione. Assolutamente, guarda, lo smart working sarà il vero portato di innovazione anche culturale di questa situazione di pandemia, perché anche le aziende più riottose che lo stanno utilizzando in verità hanno capito che è molto utile, ha un grosso potenziale. E in questo caso parliamo delle aziende di servizio, delle aziende finanziarie, delle aziende legate alla gestione di fatti, non di beni fisici ma di cose immateriali e dematerializzate, e sono moltissime, naturalmente sono gran parte dell'economia, per esempio di una città come Milano che è super terziarizzata. Ebbene, questo tipo di utilizzo del personale in remoto ha riscontrato un grosso successo anche da parte dei dirigenti del personale, da parte insomma degli amministratori delegati delle aziende, che sicuramente amplieranno le aliquote di persone che lavorano in remoto anche per il futuro, anche quando avremo superato questa crisi. Citavi la pubblica amministrazione, che per paradosso, cioè che, diciamo così, per vocazione dovrebbe essere una delle aree dove sia più semplice utilizzare lo smart working. In verità, vista tutta la consueta Bisanzio delle normative pubbliche e quant'altro, è stato utilizzato al di sotto del 30%, nonostante l'entusiasmo poi del governo su questo, i tentativi di estenderlo il più possibile, si sono rivelate situazioni di applicabilità molto complicata, dirigenza che di fatto ha boicottato l'utilizzo del MED, di questo strumento. Insomma, il pubblico impiego non è particolarmente brillante nell'uso di questo tipo di modalità di lavoro. Sul privato invece ci sono state grosse sorprese, ripeto, anche da parte dei più diffidenti. Sicuramente questa cosa avrà un impatto molto forte sulla dislocazione dei luoghi di lavoro, che probabilmente diventeranno più piccoli, sugli impatti immobiliari poi delle case dei singoli cittadini, che magari dovranno essere riconvertite con la stanza, con il lavoro o con locali condominiali che possono diventare stazioni di co-working. Insomma, ci apre un mondo che è destinato a modificare le nostre abitudini, non solo economiche ma anche culturali e di costume, direi quasi. E stavo vedendo che questa azienda, la NGPS, che il suo amministratore delegato, Carlo Alberto Guglielminotti, ha deciso di procedere a una specie di family working, la chiama lui, perché dice costa di meno fare lo smart working che far ripartire l'impresa con la fase 2, dice, calcolatrice alla mano, costa meno mettere a regime lo smart working dei dipendenti che organizzare il rientro con nuovi turni, mascherine, percorsi obbligati. E poi, per la precisione, l'impresa risparmia 190 euro a dipendente al mese nell'immediato della ripartenza e poi 90 euro al mese una volta che il sistema è a regime. Tanto per chiudere, insomma, questa riflessione. Certo, dipende poi da quello che fai, da qual è il tuo business, perché è evidente che se fai automobili in remoto combini poco, perché sulla linea ci devi andare. Però sono tantissimi i settori che possono beneficiare dello smart working. L'importante è, e anche questo farà parte poi della fase 2 degli investimenti, avere la banda ultralarga diffusa su tutto il territorio, la possibilità di avere l'infrastruttura appunto di rete che possa accompagnare lo sviluppo delle modalità di comunicazione nuove, perché le riunioni si fanno appunto con i vari sistemi con cui condividiamo poi gli schermi dei computer e riusciamo a dialogare a distanza. Ecco, tutto questo funziona naturalmente se dietro c'è un paese che è convinto poi nell'organizzare gli investimenti, i grandi investimenti infrastrutturali che aiutino poi il cambiamento. Questo sarà una cosa molto importante da fare, perché no, magari con i nuovi fondi dell'Unione Europea. E questo sicuramente darà un grandissimo impulso anche al prodotto interno lordo e alle nuove modalità di lavoro. Bisogna, insomma, avere immaginazione e ripensare tante cose. Intanto grazie Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao, grazie Alberto. A voi. Ciao. Ora ci prendiamo questa piccola pausa di riflessione mentre vedo vari tantissimi messaggi e argomenti diversi. Andrea da Udine scrive: in Friuli qualche farmacista si rifiuta di vendere le mascherine chirurgiche con il prezzo fissato dal governo, che sarebbe di 50 centesimi. Però continua un po' la polemica sulle mascherine, perché gli importatori dicono non ci conviene a questo prezzo, alcuni farmacisti dicono abbiamo comprato a prezzo maggiore e non possiamo venderla a 50 centesimi. Insomma, speriamo che nel più breve tempo possibile il tutto si stabilizzi e effettivamente, come negli annunci del governo, si possano trovare facilmente e appunto a 50 centesimi. Poi invece c'era un altro ascoltatore tra i tanti, dice: ciao Roberta, qui dove abito, però non mi dici dove, non si fanno più le code per entrare ai supermercati, non ci capisco niente, un abbraccio, ricambio l'abbraccio, però se mi dici dove succede e perché, o perché magari la gente non si fionda più al supermercato con la paura di non sopravvivere con i beni alimentari che potrebbero scarseggiare, questa era la paura iniziale del lockdown, oppure per quale motivo, non lo so, ci risentiamo tra... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte, allora vi devo fare i miei complimenti naturalmente, perché siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché qua ve le riassumo tutte le più importanti da sapere dall'Italia e dall'estero e poi insieme agli ospiti cerchiamo di scandagliare meglio alcuni argomenti. Abbiamo parlato delle stime piuttosto nere della Commissione Europea sul PIL, sull'economia dell'Europa in genere e in particolare purtroppo dell'Italia. Adesso ci concentriamo e poi abbiamo anche accennato a qualche caratteristica della fase 2, anche delle necessità e dei cambiamenti che si renderanno più o meno obbligatori. Adesso ci concentriamo su delle tensioni che ci sono nella politica interna e in particolare nella maggioranza di governo. Vedo ancora i vostri messaggi, tanti, alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Anche qui dice quell'ascoltatore, prima un ascoltatore diceva che nella sua città, che però non ha precisato dove, non ci sono più code nei supermercati. E anche da Como un altro ascoltatore dice: anche qua le code ci sono state solo qualche giorno e solo in centro. E allora vediamo come si chiama, un altro messaggio cerca di spiegare il perché, almeno dal suo punto di vista, il motivo per cui non ci sono più code ai supermercati. Scrive: perché adesso si possono fare delle passeggiate liberamente, non senza il motivo di andare a fare la spesa. Sì, è vero che qualcuno trovava un po' l'escamotage quando c'erano forti restrizioni di magari andare a comprare prima il pane, poi il latte, poi la mela, eccetera eccetera. Adesso c'è la libertà ovviamente di poterlo fare, di poter passeggiare tranquillamente, sempre con le dovute cautele. Però io credo che ai supermercati, col fatto che soprattutto nelle grandi città sia ancora contingentato, ci sono adesso delle app per cercare di programmare il proprio posto in fila, eccetera eccetera. Adesso però ci spostiamo, dicevo, sulla politica interna. Saluto la nostra cara Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera. E ci concentriamo sullo scontro all'interno del governo e con le opposizioni sulle regolarizzazioni dei braccianti, degli immigrati, che di solito nelle nostre campagne, nelle nostre coltivazioni raccolgono frutta e verdura da nord a sud e da sud a nord. La ministra dell'Agricoltura Bellanova ha detto che intende regolarizzare un certo numero, alcune centinaia di migliaia di braccianti, perché dice che bisogna dare loro dignità, e poi diventa anche una questione non solo di umanità e di diritti, ma anche di sicurezza, anche sanitaria. Allora direi di sentire questo primo passaggio della ministra Bellanova. O noi diamo a queste persone la possibilità di lavorare attraverso un permesso di soggiorno stagionale per 6 mesi in modo legale, o ci sono due ipotesi. Uno, che gli imprenditori che non vogliono fare ricorso al caporalato, alla criminalità, lasciano marcire i prodotti nei campi. L'altro è che la criminalità continui ad utilizzare la vita di queste persone e anche a ricattare le imprese. Non regolarizzare queste persone significa essere i protagonisti principali della diffusione dell'illegalità, della concorrenza sleale e dell'alimentazione del caporalato. Allora, un governo non può non risolvere questa contraddizione. Se non risolve questa contraddizione, è evidente che persone come me non sono utili nella loro funzione. E quindi ministra Bellanova di Italia Viva, il partito di Renzi, ha praticamente, insomma, sottinteso che si dimetterebbe se non passa questa sua proposta. Sentiamo dall'opposizione il leader della Lega Salvini, che dice no alla sanatoria di 600.000 immigrati. È chiaro che se qualcuno mi dà come soluzione per il lavoro nei campi la sanatoria di 600.000 immigrati di ogni genere attualmente illegalmente presenti in Italia, non ci siamo. Agevoliamo i voucher, il lavoro a tempo, utilizziamo le agenzie del lavoro che sono presenti in tutta Italia. Allora Barbara, qualcuno, molti, anche da parte del Movimento 5 Stelle, perché diciamo che questo argomento della regolarizzazione dei lavoratori immigrati nei campi italiani a raccogliere frutta e verdura, sta creando, ovviamente, abbiamo sentito Salvini, diciamo, contrasti forti con l'opposizione, ma sappiamo che questo è un cavallo di battaglia di Salvini da sempre, però anche all'interno della maggioranza, quindi tra PD, che sarebbe favorevole, Movimento 5 Stelle per lo più no, anche se ci sono poi, come vogliamo chiamare, i fichiani, cioè coloro che sono più vicini a Fico, presidente della Camera, che invece sarebbero favorevoli a questa regolarizzazione. Salvini dice poi, sentiamo l'altro passaggio, che evidentemente questa minaccia della Bellanova di dimettersi in qualche modo fa capire che la tenuta della maggioranza in questo momento è un po' sul filo del rasoio. Se c'è un ministro di un settore strategico come l'agricoltura che minaccia le dimissioni perché il governo in questo istante stanno litigando sulla regolarizzazione di 600.000 lavoratori irregolari, in un momento drammatico come questo avere un ministro di un settore strategico come l'agricoltura, quindi che ci siano contrasti nel governo su questo è gravissimo. Io poi ovviamente sono contrario a qualsiasi ipotesi di maxi sanatoria di massa, perché sarebbe un pessimo segnale nei confronti di quelli che hanno sempre rispettato le regole. Barbara, c'è rischio delle dimissioni di Bellanova, anche se ho visto che poi dovrebbe proseguire nei prossimi giorni il confronto all'interno del governo? Sì, proseguirà domani, già domani, poi ci sarà nel venerdì o sabato, non mi ricordo, un'assemblea di Renzi con i suoi parlamentari, però... E domani Conte vede Italia Viva, tra l'altro, domani sì, Conte. Il tema posto da Bellanova non è un tema banale, affatto, e lo dico qua, sono molto tranchant in questo, e non lo faccio per buonismo. Cioè, noi stiamo parlando in questi giorni se aprire o non aprire parrucchieri, ristoranti, se facciamo 10 metri tra un ombrellone e l'altro, quando ci sono centinaia di migliaia di persone che vivono in una situazione non solo di degrado ma anche di pericolo sanitario, non solo per loro ma anche per noi. Allora, per questo dico, lasciamo da parte il buonismo. Ma cioè, ci sono due temi, uno di salute pubblica, perché come sappiamo, come ci spiegano tutti e continuiamo anche noi a ripetere, col virus bisogna convivere, cioè non abbiamo battuto, al di là se riapriamo, non riapriamo, quando riapriamo, comunque il virus esiste e convivrà con noi fino a quando non ci sarà il vaccino. Benissimo, quindi noi in questo periodo dovremmo mantenere delle misure di sicurezza. Ora, far sì che delle persone, tra l'altro molte delle quali nelle parti più, come abbiamo sempre detto, esposte del paese, cioè nel sud d'Italia, ha parlato di ghetti, la Bellanova, di ghetti, di migliaia di persone che sono in questi ghetti, no? Che sono in questi ghetti, ripeto, c'è un problema umanitario, ma tolgo da parte il problema umanitario, pongo un problema sanitario e poi pongo un problema economico serio. Dopodiché dico a Salvini che quando era in campagna elettorale aveva promesso che lui 600.000 clandestini li rimandava a casa. Salvini non ne ha mandato a casa nessuno, o ha mandato a casa esattamente gli stessi che mandavano i ministri che lo hanno preceduto, perché sappiamo, non per colpa di Salvini, ma perché sappiamo che è molto complicato rimpatriare. Allora, in questo momento noi però, invece di fare delle discussioni ideologiche, dovremmo essere molto concreti. Allora, non si vogliono regolarizzare tutti i 600.000? Benissimo. Chi però ha dei posti di lavoro, chi ha si fanno dei controlli nei campi, e nei campi si dice che chi lavora nei campi o chi fa la colf e la badante non è che può essere regolarizzato, deve essere regolarizzato, se no mandiamo i carabinieri, come direbbe De Luca, no? Con lanciafiamme e facciamo chiudere. Perché cioè, tra l'altro, scusa Barbara, mi pare che sia adesso non mi ricordo se anche De Luca della Campania, ma sicuramente Emiliano della Puglia, ha detto qua se non arrivano gli immigrati a raccogliere la frutta e la verdura marcisce e l'agricoltura della Puglia non esiste. Ma le mele chi le raccoglie in Val di Nonna? In Trentino. Voglio dire, basterebbe andare un po' in giro e vedere nei campi, anche questa, come posso dire, questa propaganda, mandiamo quelli che prendono il reddito di cittadinanza. Ecco, te lo stavo intanto per prima dire. Che abbiamo capito che non si riesce neanche a incrociare la domanda con l'offerta, cioè non sappiamo, i famosi navigator mi sembra che stanno navigando nel vuoto, ma a prescindere da questo, qui la frutta e la verdura va raccolta ora. Non è che ci sono dei tempi, perché poi marcisce. Le fragole, per esempio, in questo momento, no? Italiana. Le fragole che deperiscono subito, per esempio, fra le tante cose. Per esempio le fragole, c'è un problema con le fragole in questo periodo, ci sarà il problema con le ciliegie, ma insomma adesso io e non questo è che farà faccio... aumentare i prezzi, tra l'altro in modo esponenziale, è se ovvio, la merce si riduce, ovvio, no? Se come io non quantità. Dispongo di manodopera, se io non dispongo di manodopera, è chiaro che la merce che arriva sui banchi del mercato è minore e quindi salgono i prezzi. Cioè, non è sempre il solito discorso del rapporto tra domanda e offerta. Però quindi... ti voglio far sentire, Barbara, che cosa ha detto Crimi, attuale capo del Movimento 5 Stelle, oggi a 24 Mattino, che era Radio 24. Quello che serve a fare emersione di lavoro nero o lotta al caporalato per noi sono sempre stati i nostri cavalli di battaglia e continueremo a fare tutto ciò che è utile in quella direzione. Che siano italiani o stranieri, ma se, come ho potuto leggere, c'è anche una parte di testo di intenzioni di fare una regolarizzazione, una sanatoria modello Maroni, perché vorrei ricordarlo, Moderlo, Maroni, Bossi-Fini e altri, noi non ci stiamo. Che le ipotesi in campo che prevedono la concessione di permessi di soggiorno temporanei agli immigrati che erano qui e che oggi sono irregolari, secondo me non aiuta all'emersione del lavoro nero, tutt'altro. Che ne pensi che non aiuta l'emersione del lavoro nero, ma tutt'altro? Vale. Balle, perché invece aiuta l'emersione del lavoro nero e comunque rende a quel punto, dai degli strumenti perché consenti alle imprese di potersi avvalere di personale legalmente, perché non ci so, cioè la cosa che mi sto accalorando perché sento Barbara, anche un ascoltatore dice: Barbara, perché, dice Paolo da Torino, è condivisibile quello che dice, ma il tono è così forte, sì, così... ha ragione il nostro ascoltatore, è appassionata, però Barbara, mi appassionata. Perché mi sembra periodo troppe chiacchiere anche su questo perché ad esempio nei campi se non ci vanno gli immigrati non ci va nessuno. Chiaro. Non è che ci va qualcun altro. Non è che puoi obbligare quelli che prendono il reddito di cittadinanza a dire vai se non ci vuole andare. Campi. Barbara, ma comunque... ti voglio leggere due cose velocemente, ci dobbiamo lasciare. Renzi ha detto: bisogna smetterla con i decreti del Presidente del Consiglio, il governo può dirmi se usare o no la mascherina, se evitare gli assembramenti, ma se vengono consentiti gli incontri non è un del decreto che può dire il prozio sì, l'amico no, perché ne va della libertà costituzionale, eccetera, eccetera. Dice: sento gente che mi dice mi fido di Conte, mi fa piacere questo, dice ancora Renzi, ma un domani con questa stessa metodologia, se diventassero Premier Salvini o Meloni, potrebbero fare la stessa cosa? Sicuri che questa sia la strada giusta? Dice che questo è il timore di Renzi? Ma allora, intanto breve. Trovo corretto fare delle personalizzazioni, nel senso Conte sì, Meloni e Salvini no, fino a prova contraria non è che Salvini e Meloni hanno dato prova di essere non democratici. Trovo che ci sia stato un eccesso di DPCM, dopodiché non credo che ci siano state delle violazioni di carattere costituzionale, ma io non sono un costituzionalista. Credo che questo Presidente del Consiglio si è trovato in una situazione difficilissima in cui doveva prendere delle decisioni in poco tempo e stiamo vedendo come il Parlamento in questi giorni che sta discutendo sul decreto imprese, ci sono 3.000 emendamenti, non si riesce a quagliare, vediamo le discussioni all'interno del governo sul decreto che doveva essere aprile, è già diventato maggio. Quindi quando la politica discute, ed è giusto questo, certo. Ci mancherebbe altro perché certo. È il modo in cui si migliorano poi i provvedimenti, però ci sono dei momenti in cui mascherine sì o mascherine no, lo devi decidere in 24 ore e quindi... Chiarissima. Barbara for presidents, qualcuno dice, adesso è presa la maniera, sindrome di qualcuno di volere tutti i presidenti, ma insomma Barbara posso condividere. Poi ci sono tante opinioni, chi pro chi contro, qualcuno dice ma le donne pugliesi che lavorano col caporalato le vogliamo mettere in regola anziché gli extracomunitari, ma ci dovrebbe essere tra l'altro la legge contro il caporalato, ma qui ci dobbiamo fermare, un lungo discorso. Grazie Barbara Fiammeri, un abbraccio a te. Grazie presto. A voi. Una bella camomilla adesso. Diciamo che non esclude, cioè, una cosa non esclude l'altra. Perché lasciamo da parte le chi raccoglie ed è italiano rispetto a un immigrato. Certo. Io sto semplicemente dicendo che regolarizzare significa prendere atto di un problema, che certo. È un problema che c'è. Chiarissimo. Non ci giriamo dall'altra parte. A ben presto, cara Barbara Fiammeri. Io adesso mi giro verso il mio tecnico Pietro Corte per dire che siamo in ritardo per la viabilità e ci sentiamo un momento. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Nel giugno 2018 non vi fu alcuna interferenza, diretta o indiretta, nella nomina del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Questo passaggio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, del ministro della giustizia Bonafede oggi in question time, cioè interrogazione a risposta immediata alla Camera, è un po' il cuore della vicenda della quale ci occupiamo adesso, ovvero la forte polemica scaturita nei giorni scorsi dalle accuse durante una trasmissione televisiva sulla 7 del magistrato antimafia Nino Di Matteo. accuse queste nei confronti da parte di Matteo del ministro della giustizia Bonafede in seguito alla sua mancata nomina di Matteo alla guida del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Va ricordato che il tutto è partito, questo sfogo, queste accuse da parte di Matteo, proprio dalla bufera che ha investito nei giorni scorsi il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per i tanti boss scarcerati o messi insomma agli arresti domiciliari, boss anche di spicco. Quindi in realtà, Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao Roberta, eccoci. I fronti sui quali ha dovuto riferire e dare spiegazioni oggi il ministro Bonafede alla Camera sono due. Quello importante, molto importante, di quelle che sono sembrate delle scarcerazioni facili, immotivate, ingiuste di boss mafiosi, e poi perché Bonafede avrebbe individuato in un primo tempo Di Matteo a capo del DAP per poi non farne più nulla, no? Esatto, sono due fronti che si sono incrociati e che hanno portato il guardasigilli, diciamo, al centro di una serie di attacchi, di giorni, di polemiche di vario tipo e molto più forti. Molto forti. Da una parte appunto la ricostruzione che in realtà in quella il rituale scontro televisivo tra un membro del CSM, ossia l'ex PM Di Matteo, e il guardasigilli Bonafede, andato in onda in TV, e il ministro aveva già dato la sua versione di quello che era avvenuto 2 anni fa, perché parliamo di retroscena di 2 anni fa, e che oggi ha ripetuto in aula. Cioè in sostanza ha ripetuto che a Di Matteo, ricordiamolo, PM del processo sulla trattativa Satomafia, uno dei magistrati anche più divisivi all'interno del corpo della magistratura, e che è anche stato uno dei magistrati portati a vessillo dal Movimento 5 Stelle come simboli appunto dell'antimafia, per cui questo ha reso il tutto dai toni ancora più accesi, diciamo, politicamente, e difficili proprio per il guardasigilli. Il guardasigilli però in sostanza ha spiegato che all'epoca aveva offerto a Di Matteo 2 opzioni, una quella di capo della DAP, dell'amministrazione penitenziaria, l'altra quella degli affari penali del ministero, come ha ricordato il ruolo che aveva già ricoperto anche Giovanni Falcone, ma che progressivamente negli anni è cambiato. Dopodiché però, quando Di Matteo aveva deciso di accettare quello del DAP, in realtà l'aveva già assegnato poi ad un'altra figura. Queste in sostanza le accuse di Di Matteo sono state che erano intervenute delle pressioni esterne tali da indurre il ministro a revocare quell'offerta, e oggi Bonafede, così come aveva detto già fatto in TV, non si fa condizionare da nessuno, non aveva subito alcuna illazione, e ha rivendicato la sua linea politica. Ma questo appunto come ricordavi, si incrocia con una polemica che anche questa ha avuto molti toni molto forti anche da un punto di vista politico, che è quella riguardante l'uscita di 2.900 detenuti negli ultimi 2 mesi che sono andati ai domiciliari per ragioni sanitarie legate anche all'emergenza Covid. In sostanza si tratta di detenuti che avevano una delle 10 patologie che erano state indicate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e che quindi li esponevano a maggiore rischio sanitario. Il caso è scoppiato soprattutto riguardante i 376 boss o presunti tali, dico presunti tali perché la maggior parte di questi 376 erano e sono ancora in attesa di sentenza. In questo numero però poi ci sono stati i casi che hanno fatto scoppiare il grande clamore politico, mediatico, insomma, che hanno creato il caso, ossia di 3 detenuti alla 41 bis e di alcuni detenuti, e di alcuni detenuti al regime di massima sicurezza, compreso l'89enne ex carceriere del bimbo Di Matteo che era stato sciolto nell'acido dai corleonesi. Quindi per sintetizzare, per chiudere, adesso Bonafede oggi ha annunciato un decreto per cui che porterà a riesaminare queste scarcerazioni, soprattutto una sorta di marcia indietro per riesaminare questi casi. Poi dice la condizione sanitaria del paese, l'emergenza è cambiata, per cui in sostanza si possono rivedere questi casi ed eventualmente tornare in cella. Il tema qual è? È che il mondo del carcere è un mondo complesso e che andrebbe affrontata ogni singola questione, anche ogni singola decisione riguardante anche la salute di tutti i detenuti boss compresi, come anche la consulta più volte ricordata, senza diciamo che venga ogni volta inserito in un grande dibattito di discussione e strumentalizzazione politica. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, grazie a te. Ora invece ci trasferiamo subito in Gran Bretagna per raggiungere il corrispondente dell'ANSA, Alessandro Logroscino. Buonasera Alessandro. Buonasera a te e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Caro Alessandro, allora intanto numeri pesanti per la Gran Bretagna, si contano almeno 32.000 morti, che sarebbe il dato più alto in Europa e forse il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti, vedevo ieri appunto i numeri, e c'è questa paura di riaprire. Nello stesso tempo c'è stato uno scandalo forte, no, che ha colpito diciamo lo scienziato di riferimento del governo britannico, Alessandro. Sì, ha colpito una figura importante, uno dei consulenti, diciamo, c'è tutto un gruppo di scienziati, però certamente uno dei più influenti, quello che di fatto ha avuto il merito, per così dire, di aver convinto Boris Johnson, il governo britannico, e anche con i suoi calcoli, anche in realtà aver avuto un'influenza anche su altri governi, ad adottare a un certo punto la linea della prudenza, quindi di questo lockdown, di queste restrizioni un po' più severe, perché inizialmente la Gran Bretagna era tentennato, molti altri paesi che erano indietro rispetto all'Italia hanno atteso, e la Gran Bretagna è stata uno di questi. E questo professore Neil Ferguson, che insegna all'Imperial College di Londra, quindi un ateneo di grandissimo prestigio, assolutamente, lui è un esperto di modelli matematici applicati alla epidemiologia, aveva fatto dei calcoli, sulla base di questi calcoli che erano particolarmente spaventosi. C'è stato poi il lockdown, no? Esattamente. Però lui che cosa ha fatto? Ha infranto questo lockdown, lui il primo che diceva agli altri che cosa effettivamente doveva fare, per andare dall'amante, questa è la cosa. Esatto, l'amante è andata da lui, per, se vogliamo essere proprio precisi nel racconto, diciamo. Un giornale ha scoperto, e anche lì poi adesso ci sono mille dubbi, se qualcuno abbia voluto incastrarlo, perché naturalmente ci sono anche interessi contrari al lockdown eccetera, però fatto sta che al di là di chi lo abbia eventualmente incastrato, il fatto è vero, lo ha anche confermato lui. Lui ha avuto, tra l'altro, era stato contagiato dal coronavirus, l'aveva superato, si riteneva immune, e avendo questa relazione con questa collega, un'altra ricercatrice meno nota di lui, che vive col marito e due figli fuori Londra, hanno pensato bene, diciamo, di incontrarsi più o meno clandestinamente, eccetera. Ora è fuori lui da Tesco. E adesso si è dovuto dimettere per questa evidente, diciamo, incompatibilità, diciamo, tra quello che diceva e quello che faceva. Quindi, insomma, un Regno Unito un po' in difficoltà tra numeri pesanti e questa cosa di aver perso lo scienziato di riferimento. Grazie intanto al nostro Alessandro Logroscino dell'ANSA, dal Regno Unito. Grazie, buon lavoro, un abbraccio. Grazie, buona serata. Ciao Alessandro, a tra poco.